Siamo con Andrea Ronchi, coordinatore del comitato per Matteo Renzi e Cinisello Balsamo. Un risultato nel Nord Milano già abbastanza acquisito al primo turno, che si conferma in questo secondo turno. Un vostro commento? Sì, aumentiamo percentualmente il dato del primo turno in un quadro di diminuzione dell'afflusso di persone. È chiaro che le regole non hanno aiutato, in quanto potevano votare solo gli elettori del primo turno, e questo è un rammarico. Avevamo tutti i candidati del primo turno che appoggiavano il segretario, e quindi è stato difficile, se non impossibile, riuscire a ribaltare il risultato. Tuttavia, le percentuali in un'area di forte radicamento del Partito Democratico, con un partito completamente schierato quasi sul segretario, sono confortanti per noi e ci fanno ben sperare nel futuro. Ecco, queste primarie nazionali hanno un po' oscurato, se vogliamo, le primarie regionali che si terranno sabato prossimo. A livello lombardo non c'è un candidato equiparabile a quello che è stato Matteo Renzi nella corsa nazionale. Avete una posizione particolare rispetto ad Ambrosoli alle primarie regionali, oppure il partito convergerete in maniera unitaria su Ambrosoli? I comitati sono nati per appoggiare la candidatura di Matteo Renzi, quindi non hanno nessuna attinenza con le candidature alle regionali. Ogni militante del Partito Democratico simpatizzante di Matteo Renzi farà le valutazioni che riterrà più opportune per la candidatura regionale. Con questo giro per noi si chiude una fase, cioè, che era di cui ci vede sconfitti, però si apre comunque una partita all'interno del Partito Democratico, perché penso che il progetto di innovazione e di riforme presentato da Matteo Renzi sia un progetto che meriti uno spazio di rappresentanza all'interno del Partito Democratico.